Sei un giorno perso quando non ci sei, la solita chiamata che vorrei da te. Sei la parte buona dei pensieri miei, un calendario senza giorni ormai, sei te. Sei con me e sei come sei, senza te io che faccia avrei. Corrente ormai mi sbatti addosso e dopo te ne vai. Da chi sei la dissonanza quando non ci sei, la stanza vuota che distruggerei.